Capitolo 36. Costa delle Romagne. 5 febbraio 1551. In Dalmazia è stato un successo, compari. Perna fa rimbalzare un sasso sul pelo dell'acqua. Gente che si nutre è assai male, capito? Ma sa scegliere con cura le letture. Se andiamo avanti di questo passo, rischiamo di diventare famosi come distributori del libro più diffuso dopo la Bibbia. Vento gelido, che sa di notte, di mare e di resina. Sulla spiaggia. Con Pietro Perna e Joao Michez un incontro per scambiarsi notizie e progettare l'immediato futuro. Appuntamento di corsari come molte stagioni fa, sulle rive olandesi. La mano affonda lentamente nella sabbia fredda. Il sole fa altrettanto, oltre la pineta. Entriamo nel capanno di pescatori. Dentro il fuoco è già stato approntato. Le reti pendono dal soffitto ad asciugare. Seguo lo sguardo di Joao. «Sai qualcosa di Demetra?» Si volta annuendo. «Quella signora ti sta facendo diventare ricco? L'ultima volta che sono passato dal caratello non c'era un tavolo libero. Sta bene, mi pare. Non so di nessuno che l'abbia disturbata». «E qui, nelle Romagne?» Perna mi scuote per un braccio. «Spero non ti sarai perso lo straordinario sangiovese sangue di bue. Dicono che fa sognare, capito?» Estraggo il fiasco dalla bocca e glielo stappo sotto il naso. «Eccoti servito!» Perna tracanna alcuni avidi sorsi. «Devo venire a stanarti qua giù perché mi offrissi ancora del buon vino. Che altro c'è di buono in mezzo a queste paludi?» «La gente di queste terre odia il clero dal profondo delle viscere. Ho conosciuto le persone più diverse, battezzato contadini e pescatori, mercanti e ubriaconi, tutti testardi allo stesso modo, tutti con il fuoco al posto del sangue. Agitare gli animi da queste parti non sembra impresa difficile». «Joao, il beneficio?» «I carichi sono arrivati regolarmente, li ho venduti bene. Traffico con i contrabbandieri di qui. Gente ruvida, dall'aspetto truce, un gergo che ancora faccio fatica a capire, ma scaltra e vicina al popolo. Nessuno che sappia leggere o scrivere, ma hanno compreso subito la convenienza dell'affare». Joao fischia dentro una conchiglia e scuote la testa. «Credo sia necessario che te ne stia in giro ancora per un po'». Il mio sguardo chiede spiegazioni. «Le autorità hanno sentore del Concilio degli Anabattisti. Non ci sono stati arresti, ma sono tutti sul chi vive. Venezia pullula di sbirri, spie, delatori, non c'è da fidarsi. Da quando è stato promulgato l'indice, soprattutto gli stampatori sono tenuti d'occhio. I libri non circolano più con la stessa facilità. E poi c'è una novità. Alcuni giudei convertiti, nostri amici, persone che conosciamo bene, sono stati fermati con l'accusa di criptogiudaismo. Si annunciano i primi processi, per ora marginali, senza grande clamore. Ma sono cose che ho già visto. La prima nuvola nera che preannuncia la bufera, il marchio indelebile dell'Inquisizione, come in Spagna, come in Portogallo». Perna. «Il tuo amicone, il Papa dalle letture sconce, non mi sembra granché intenzionato a tenere a bada i cagnacci del Santo Uffizio. Sta per scoppiare un gran puttanaio, capito? Non bisogna farsi fottere». Michez. «Sto usando tutta la diplomazia di cui sono capace per tastare gli umori dei mercanti che sono in affari con noi. Cerco di insinuare una concreta preoccupazione per le nefaste conseguenze di una nostra eventuale incriminazione. Non credo che basti. La diplomazia e la corruzione sono arti indispensabili in questo momento, ma non sempre sono sufficienti. Meglio tenersi pronti a ogni eventualità. Comunque, data l'aria che tira, è meglio che tu resti ancora lontano da Venezia». «D'accordo, ma non per molto tempo ancora. Comincio ad avere i coglioni pieni di fare il profeta alla mia età. La semina di Tiziano è ormai finita. Il Concilio Anabattista ha sancito l'unione delle comunità che dissentono dalla Chiesa. Circoli frequentati da figure di spicco in ogni stato della penisola premono sui governanti. Un grande pittore, con cui ho avuto in sorte di diventare familiare, Jacopo da Pontormo, sta affrescando il beneficio di Cristo nella cappella dove sarà sepolto Cosimo de' Medici. Un'opera meravigliosa. Ho visto il progetto e parte degli affreschi già realizzati, che egli conduce in gran segreto. Tutte le comunità sono attive. Il sasso è stato lanciato. Le conseguenze si vedranno. Intanto, è necessario che mi teniate informato su quanto accade a Venezia. Anche i dettagli sono importanti». Rimaniamo in silenzio. La risacca culla i pensieri insonnoliti, la testa è pesante. Le nostre ombre scivolano lunghissime lungo le pareti fino al soffitto. Perna drizza il capo, come svegliato da un rumore improvviso, gli occhi piccoli arrossati di stanchezza. «Potrei avere ancora un po' di quel nettare?»